Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Sei tu il profeta? No. Chi sei? Che cosa dici di te stesso? Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Oggi abbiamo in questo brano la dichiarazione che fa Giovanni il Battista di se stesso. Molte persone, vedendo la vita di Giovanni il Battista, credevano che fosse il Messia, credevano che fosse lui il Salvatore. E quindi i farisei mandano una delegazione di persone a fargli proprio la domanda: ma tu chi sei? Che cosa dici di te stesso? Ed è molto bella la risposta di Giovanni. Giovanni dice: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Perché Giovanni si definisce la voce? Quando noi dobbiamo parlare, noi parlando usiamo un linguaggio, usiamo delle parole, usiamo dei suoni e molto spesso il suono e la parola noi li confondiamo, cioè pensiamo che siano la stessa cosa, ma sono due cose diverse. La parola è il concetto che viene veicolato attraverso il suono della voce. Quindi il suono della voce è lo strumento per comunicare un concetto. C'è un brano di Sant'Agostino che fa appunto un commento al Vangelo di Giovanni in cui si spiega bene la differenza tra Giovanni e Gesù. Giovanni è la voce, Gesù è la parola. Che cosa succede? Che la parola rimane, la voce passa e Giovanni è colui che ha preparato la via al Signore, ma non è lui la pienezza della rivelazione. E Gesù invece è la parola che rimane, perché Gesù è la verità, Gesù è la vita, Gesù è tutto quello che noi cerchiamo. Quindi vi leggo un attimo questo commento di Sant'Agostino. Giovanni è la voce, del Signore invece si dice in principio era il Verbo. Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Vediamo qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso a ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo posso far entrare in te quella parola. Le do suono e così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore. Non ti pare dunque che il suono stesso che è stato l'autore della parola ti dica egli deve crescere, io invece diminuire? Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza e poi se n'è andato quasi dicendo: questa mia gioia, questa mia gioia si è compiuta. Quindi, vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e se ne andò, ma il battesimo di Gesù continua ad essere amministrato. Tutti crediamo in Gesù e questo voglio significare la voce. Siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la parola, ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla parola. Ecco, Giovanni quindi si definisce come la voce di uno che grida nel deserto. E questo Giovanni ce lo indica chiaramente in questo Vangelo. E oggi vogliamo anche noi essere la voce che comunica la parola. E per essere la voce che comunica la parola, come si fa? La voce deve essere curata. Io ho un'amica che è cantante lirica e lei mi dice sempre che per poter cantare bene bisogna coltivare la voce. Allora oggi coltiviamo la voce. Che vuol dire coltivare la voce? Prima di tutto imparare a respirare. E il respiro dell'anima è la preghiera. Quindi, per poter migliorare la nostra identità, il nostro essere voce, il nostro poter indicare e portare l'amore, la gioia, la serenità, la pace, dobbiamo imparare a respirare bene, perché respirare bene vuol dire coltivare la nostra voce. E poi scegliere gli alimenti giusti, diceva sempre questa mia amica cantante, quanto è importante mangiare le cose giuste ed evitare alcuni cibi. Allora anche noi vogliamo cibarci dell'Eucaristia e della parola di Dio per poter veramente parlare bene, suonare, cioè per poter modellare bene la nostra voce e compiere bene la nostra missione di indicare Gesù, di indicare la parola, di portare consolazione, gioia, pace, serenità. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così: ci sono sofferenze che scavano nella persona come i buchi di un flauto e la voce dello spirito ne esce melodiosa. Ci sono sofferenze che scavano nella persona come i buchi di un flauto e la voce dello spirito ne esce melodiosa. Buona giornata.